Allora, niente, dicevamo che questa è una seconda puntata, a questo punto possiamo ufficializzarlo. I componenti della band sono sempre gli stessi. Ho qui di fianco a me, con grandissimo piacere, Emanuele e Fulvio. Ma buonasera. Magari. Buonasera, squadra che vince, come si diceva prima, non si cambia, quindi alla grande. E abbiamo anche un ospite che ci ha raggiunto qui per studiare le nostre mosse. Abbiamo il nostro Matteo che ci studia dal Baraonda, che ci studia dal dietro le quinte bevendo della birra e giudicandoci, secondo me, in maniera insomma senza pietà. E quindi insomma io sono già in ansia alla prestazione, perché sento il suo sguardo sulla nuca. Io ho deciso che gli do le spalle, così non lo vedo e non mi mette tensione. Ma lo senti? Ci sono 98 gradi, ma comunque un brividino dietro il collo. È giusto si così. Si percepisce nella caldissima Milano Sud. Siamo all'interno degli deliziosi e freschissimi studi di Radio ZM. E appunto a questo punto, come dire, iniziamo questa puntata dal titolo Riprendere il controllo, che, come dire, trae i suoi origini dagli ottimi spunti offerti da il lavoro di Markspedia, saluto e come dire, rimbalzo il pallone rispetto al fatto che prima ho detto Emanuele e Fulvio, ma effettivamente non ci sono solo Emanuele e Fulvio, ma ci sono le rappresentanze dei nostri carissimi fratelli e compagni partigiani del CSA Baraonda, recentemente messo a lucidissimo, e i nostri sempre freschissimi compagni della Madonna di Markspedia.org. E quindi arriva da loro un contributo. Emozione. Che noi non potevamo che fare nostro, e in particolare arriva un contributo che ha un titolo che io mi ovviamente metto, L'importanza del controllo per oggi, e sembra che sono ricoglionita, però in realtà sì, ma lo nascondo abbastanza bene. È un percorso che si trova online, è un opuscolo cartaceo che ci dà un po' la base della chiacchierata di questa sera, e da un tema un po' tabù, poi cercheremo di capire perché nella sinistra italiana si parla molto poco del tema del controllo, eppure la storia è piena di episodi di controllo operaio, l'ho detto quasi alla Barbero, è piena di storie. Andiamo operaio, a bruciargli la casa. Esatto, però è pieno così, insomma. E infatti a questo punto l'altro pezzo di domanda, perché noi pensavamo, diciamo, di essere successivi a una bellissima presentazione che doveva prendere luogo al Baraonda, in realtà l'anticipiamo, quindi siamo noi a fornirgli gli assist. Sarà a settembre, giusto? Sarà a settembre. Abbiamo avuto un po' di problemini legati a caso di settembre. Non un giorno a caso di settembre, esatto, ma il giorno successivo all'apertura dello spazio, prima di tutto, che sarà il 10, vabbè, lo diciamo, e quindi insomma il giorno successivo va da sé, sarà niente proprio di meno che l'11 settembre, ecco, quindi così. E quindi allora le truppe di Markspedia, lo squadrone della morte, della abbatteranno il Baraonda, speriamo di no. Con tutta la sua pesantezza di contenuti. Perfetto, ma infatti a questo punto io qui vi volevo, perché la prima domanda che volevo fare un po' a Fulvio rispetto alla diciamo alla presentazione, ma in generale se chiunque voglia rispondermi, è perché effettivamente è importante, non solo diciamo ricitando il titolo, l'importanza del controllo operaio, ma anche e soprattutto parlare di controllo operaio nel 2022, dove potenzialmente sembrerebbe un tema un po' retro. So se... Caspita, beh sì, domandina super ampia e non lo so, mi verrebbe da rispondere a questa domanda con un'altra domanda. Aspetta, no, che non mi sento. Esatto, forse allora. Il microfono che ha qualche problema. Mi sentite? Sì, ci sono? Okay. Ok. Cioè, mi viene da rispondere, come dicevo, a questa domanda un po' con un'altra domanda, no? Che è un po', come dire, perché facciamo politica? Se non perché usiamo così tanto tempo, no, delle nostre vite personali per fare politica, se non per rimettere in discussione chi detiene le leve del controllo della società, che significa poi tenere il controllo anche delle nostre vite personali, perché insomma diciamocelo un po' fuori dai denti, chi è che si sente davvero capace di determinare, di autodeterminare il tempo della propria vita? Noi viviamo una condizione nella quale, nel momento in cui siamo al lavoro, il controllo della produzione, il controllo del nostro tempo lavorativo non è in mano nostra. Nel momento in cui viviamo le nostre vite sui nostri territori, a casa nostra, al parchetto sotto casa o che so, viviamo una situazione nelle quali il territorio viene controllato da altri, no? Che lo controllano con politiche securitarie, di gentrificazione. Aspetta un attimo che ti do il mio microfono, passa un attimo di qua, che così facciamo un cambio in corsa. Ok, ok. È il bello della diretta. È il bello della diretta. Se c'è un po' un microfono, ce la farei il cambio. Esatto, allora così noi nel frattempo cambiamo un filo, che secondo me è il problema di tutto. Lascia pure qua e vieni di qui a rispondere, che io... Sta succedendo davvero, voi non lo potete vedere, se c'è qualcuno che sta ascoltando non lo può vedere, ma sta succedendo davvero. Ci stiamo muovendo per lo studio. Esatto. Tra le altre cose sto utilizzando adesso un microfono che non ho mai usato, complicatissimo per me. Perché sei tu che adesso ti devi muovere. Devi esatto, fare. Cioè non è il microfono che si muove con me, ma io, cioè il microfono è il capo, è il centro, capito? Un po' come il padronato è il centro delle nostre vite, cioè appunto nel momento in cui siamo nei posti di lavoro o nel momento in cui appunto viviamo i nostri territori, stavo dicendo, no? Cioè i nostri territori che sono appannaggio delle scelte di altri, cioè con politiche appunto securitarie, con le politiche di gentrificazione, le politiche di profitto e lo sappiamo tutti coloro che hanno un mutuo, che hanno un affitto, sanno benissimo quanto non hanno neanche in casa propria il controllo completo del diritto all'abitare, no? Ma questo controllo non c'è neppure quando andiamo a berci la birretta con gli amici al parco, mi viene da dire, no? Perché anche in quel caso, sempre di più, al parco non ci puoi andare perché è indecoroso stare al parco con una birretta con gli amici, e allora bisogna andare nel locale per utilizzare, come dire, per fare del profitto di un certo tipo, no? E quindi le nostre vite vengono un po' declassate a vite di produttori e consumatori, cioè il vecchio produci, consuma, crepa, no? Ecco, voglio dire, come dicevano quelli là. E allora il controllo, cioè riprendere il controllo, significa anche riprendere il controllo delle nostre vite. E significa anche ragionare su quelle che sono le dinamiche di potere, perché evidentemente chi ha il controllo ha il potere, no? E il potere in sé sviluppa anche il proprio antagonista, cioè quindi il contropotere, cioè che in un certo qual modo non è che esiste solo quando ci stanno le lotte. Il contropotere esiste perché un operaio, un lavoratore, una lavoratrice, in nuce già di per sé è il contropotere. Poi Emanuele ce lo racconterà meglio, però evidentemente chi sta in produzione, chi lavora nel credito, nell'energia, nei trasporti, chi lavora nell'istruzione, nella sanità, chiunque lavora negli asset, no, strategici di un'economia nazionale, sta all'interno di quelle leve, anzi tocca con mano le leve del controllo. Poi che le eserciti o meno, davvero, è un altro discorso, però le ha in mano. E i territori in questo sono l'altra faccia della medaglia, quindi da un lato c'è la produzione, quando noi tutti e tutte andiamo a lavorare, no? E dall'altra parte c'è il territorio che viviamo, il territorio che è anche un elemento di congiunzione, come dire, non lo so, fisico, no? Tra le lotte, perché poi è lì che è l'elemento di interconnessione, è l'elemento dove possiamo sviluppare solidarietà ed è anche l'elemento dove si muovono le macchine repressive dello Stato o del padrone, insomma poco cambia, ecco. E quindi insomma Da un lato c'è tutta la parte del controllo operaio, di cui i compagni di Marspedia ci raccontano tanto nell'opuscolo che hanno scritto. E dall'altra parte c'è tutta la parte di quello che dovrebbe essere il controllo territoriale, che è una roba, come dire, che va da sé. C'è un centro sociale, sta in un territorio, sviluppa una dinamica di territorio che va da sé, implica la questione del controllo, che si interconnette con la questione del controllo del lavoro, del controllo della produzione, ecco. E quindi, insomma, da lì viene un po' la necessità, secondo me, di andare a interconnettere i due tipi di controllo e presentarli anche in uno spazio come il Centro Sociale Baraonda, che è uno spazio eminentemente territoriale, che però appunto non è slegato dalle questioni del territorio, del controllo produttivo e del domandarsi chi e come prendere il potere, ecco, della società. Spero di essere stato, insomma, chiaro, complicato. Nel frattempo adesso mi riprovo, perché ok, guarda, cioè nel frattempo c'è stato uno slancio. Ecco, sì, no, scusami. Nostra tecnica, cioè, chiara, super. Capito? Tra l'altro adesso in questo momento non lo potete vedere, ma c'è Fulvio che ha preso il comando, la regia, e quasi lo lascerei lì. Oddio, mamma, te lo rilascerei molto volentieri in realtà. No, adesso ti riprendo il posto, ma lo vedo bene lì acchittato, quasi quasi glielo lascio. Il mio telefono no, però quello è importante, come tu mi sai. Sì, assolutamente. È bellissimo averlo davanti, infatti, peraltro. Cioè, dovreste vederlo. Peccato che sì, non c'è. Purtroppo si allora, sta rompendo. Nelle tra radio moderne, allora, se lo tocco, lo scuoto, sembra una maracas. Sì, esatto. Ve lo dico. Che non depone a favore del però, esatto. No, non pensa che la prima botta forte l'ha presa ad un nel 1994. Ah, davvero? Sì, te lo giuro. Incredibile, ma vero, non so che cosa ci fosse. Vorremmo metterlo in bacheca al Baraonda, allora, una volta che dovesse mai smettere. No, non so se me la sento. No, comunque no, adesso scherzi a parte, in realtà io credo che tu abbia toccato un sacco di temi molto interessanti. Ma hai fatto una domanda super aperta, super interessante, ma super aperta. Infatti ci sta, perché questo anticipa un po' tutta una serie di tematiche che adesso svieleppiamo un pezzo alla volta, però no, mi sembrava perfettamente on point. Mi sembrava assolutamente on point. E invece io adesso rimbalzo verso Ema. Però aspetta che facciamo il cambio. Allora no, facciamo così, che io ti faccio la domanda, sì. Così poi tu inizi a parlare e noi facciamo dietro le coreografie. Strago praticamente il pubblico e voi intanto mi ballate. Stupendo. Esattamente. No, allora, in realtà, perché io volevo fare due domande al buon Ema. La prima è la domanda a questo punto che dovremmo iniziare. Senti come spinge Shostakovich, come pompa nelle casse. Oh no, altro che metal. E niente, no, in realtà una delle domande è sicuramente quella di che cos'è, e quindi di cosa stiamo parlando quando parliamo di controllo operaio. In realtà a questo punto l'aggancio con una adesso poi la seconda domanda è molto cioè la seconda domanda che ti faccio è molto collegata, ti faccio iniziare a parlare e poi a un certo punto ti interrompo per farlo, ma a questo punto io ti chiederei una mini cosa rispetto a perché ha senso parlarne invece con una declinazione anche di contenuto teorico, come ha fatto, che è l'operazione un po' che ha fatto Marspedia in questo opuscolo, no? Nel senso che al netto del fatto che poi la domanda principale è di che cosa parliamo quando parliamo di controllo operaio, anche come dire perché, che immagino sia un po' il lavoro che fa Marspedia in generale, raccolgo un po' quello spirito lì, però a questo punto mi sembra che c'entri con quello, diciamo, che aggiunga l'ultimo pezzettino a quello che diceva Fulvio, che era molto completo. Sì, allora, è un'altra domanda da un milione di dollari. Partiamo da un principio. Il principio, riallacciandomi a quello che diceva Fulvio, è che effettivamente viviamo in una società dove noi non abbiamo il controllo di quello che accade. Lontane crisi economiche, chiudono le aziende, noi perdiamo il lavoro e finiamo in mezzo a una strada. Non abbiamo il controllo di quello che avviene nell'ambiente, non abbiamo il controllo di quello che possiamo mangiare, non abbiamo di fatto il controllo di nulla. E questo è un problema centrale. Però la nostra domanda è stata ancora più basilare. la crisi che il sistema ha visto con lo scoppio della pandemia ci ha mostrato che avremmo avuto le risorse, nel vero senso della parola, per poter fronteggiare la pandemia sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista strutturale, gestione degli spazi, degli ospedali, dei posti letto, gestione dei laureati in medicina, gestione degli infermieri, gestione della produzione tecnica, monitor, caschi respiratori, fino alla stessa ricerca e produzione dei vaccini. Invece è stata vanificata ovviamente dai veti incrociati dei paesi, ma anche e soprattutto dalla concorrenza economica tra poche imperiali, poche aziende multinazionali che di fatto si spartiscono la produzione. Invece l'umanità, come dire, può fronteggiare una calamità del genere soltanto attraverso una pianificazione per i propri bisogni. Controllo operaio può sembrare un concetto estremamente astratto. Se dovessimo darne una definizione, pur con tutti i limiti delle definizioni, non è nient'altro che il controllo dei lavoratori nel luogo di lavoro. Il controllo operaio può esistere, lo vediamo in piccolo piccolo, in qualsiasi sciopero, quando c'è un braccio di ferro con la proprietà, e chi comanda in quel luogo di lavoro. Perché noi viviamo in una società che è divisa in due classi fondamentali, poi ci sono anche classi intermedie che però vengono vaporizzate di volta in volta. Le due classi, si può dire vaporizzare in radio, sì. Le due classi fondamentali sono... Se abbiamo sdoganato classi, possiamo dire. Si può dire, classi, allora si può dire anche vaporizzare. Svapo, non lo so. E vediamo, però, vediamo. Troppo moderno. Vediamo. Un po' dopo. Le due classi fondamentali sono ovviamente quelle di chi in questo momento ha in mano le leve della società, acquista la nostra capacità di lavorare, sono i padroni, come dice Barbero, industriali, i borghesi nel vero senso della parola, e chi invece deve vendere il suo lavoro per campare, la sua capacità di lavorare. Tutti noi, vai a prendere la metropolitana la mattina, esci per strada ed è pieno di lavoratori salariati che vanno a vendere la loro capacità di lavorare nelle ore migliori della giornata. E questo è il punto fondamentale. E il punto fondamentale sta proprio qui. Quando c'è uno sciopero c'è un braccio di ferro che contende tra queste due classi chi comanda davvero nella produzione. E ci sono dei momenti molto rari nella storia in cui il controllo nel luogo di lavoro da parte di chi lavora, non della proprietà, ma da parte di chi lavora, diventa qualitativamente superiore. In alcuni casi, come negli anni 60, per esempio anche in Italia, è un controllo parziale, la proprietà è ancora presente, ma i lavoratori sono così forti da poter imporre ritmi di lavoro, assunzioni, cambi di produzione, retribuzioni. E ci sono dei momenti ancora più rari, sono le rivoluzioni, nelle quali i lavoratori istintivamente in massa acquisiscono le aziende che sono state abbandonate dalla proprietà, cacciano la proprietà, occupano gli stabilimenti e li rimettono in funzione secondo un piano, in maniera coordinata anche a livello territoriale. L'esperienza storica ci ha dato un sacco di esempi di questo tipo. L'ultimo, molto recente, in Venezuela all'inizio del XXI secolo. Alcuni storici vittoriosi, come quelli nella rivoluzione d'ottobre in Russia, ma altri invece che poi sono stati sconfitti per tantissime ragioni, eventualmente poi li vedremo. Ovviamente un fenomeno di questo genere per la nostra classe sociale, per la gente come noi, cioè per chi lavora e vende la propria capacità di lavorare, per i salariati, per gli stipendiati, è istintivo. Quando lotti e il braccio di ferro raggiunge un certo tipo di intensità contro la proprietà, quando lo scontro raggiunge un'intensità di questo tipo, diventa istintivo a un certo punto porsi il problema di controllare. E controllare la produzione significa controllare il gangolo vitale dell'esistenza della tua classe avversaria, che sono i borghesi. Se gli togli quello, non esistono più in quanto tali. Quindi questo fa depositare una discussione teorica clamorosa, perché nel nostro bagaglio di rivendicazioni, nella sinistra italiana, ma mondiale possiamo dire, il tema del controllo dovrebbe essere il manuale di istruzioni per una società differente. Eppure in questo momento è per lo più assente e di solito non si va oltre la richiesta di una statalizzazione, magari momentanea, che poi alla fine finisce che poi rivende spesso l'azienda. Concede, esatto. Guarda società il autostrade. Esempio, dibattito in Italia con il governo Conte dopo il crollo del ponte Morandi su che fare della società autostrade in mano ai Benetton, nazionalizzarla, sì, ma non certo per farla gestire dai lavoratori della società autostrade, ma per magari rimetterla in sesto e poi rivenderla nuovamente. Nazionalizzare le perdite, come si dice in questi All'Italia. Casi. All'Italia, all'Italia, altro caso clamoroso da questo punto di vista. Insomma, come questo... che li definivano i capitani coraggiosi. Sì, sì, c'è sempre una cordata di padroni disposta a rilevare qualcosa che lo Stato a spese della collettività ha già messo a posto. Quindi fa depositare... viene attribuito tra l'altro un carattere etico epico, certo. Cioè, Sono delle persone buonissime, spinte da, perché finalmente tolgono alla nazionalizzazione, certo, assolutamente, alla rovina della nazionalizzazione, si fanno carico con i loro, esatto, capitali, no? del destino del paese. E questo ovviamente fa depositare una riflessione teorica, e noi di Marxpedia, insomma, siamo un po' onomatopei, si può dire onomatopeico in radio, non lo so, però comunque essendo marxisti, siamo un collettivo, siamo una redazione marxista, ovviamente, come dire, proviamo a sviluppare questo e ci ritroviamo a discutere di controllo operaio, pur non avendo qui redazione tra di noi, oppure degli operai, ma questo è parte del problema. Perché essendo scomparso questo tema dal dibattito sindacale e anche dal dibattito politico, le mobilitazioni in Italia per ora, nonostante punte veramente molto promettenti, non hanno ancora posto all'ordine del giorno questo tema, che però secondo noi è centrale ed è bene anticipare, perché un domani con la crisi del sistema si riproporrà in maniera ancora molto violenta. Ma infatti, a proposito di parole che non so se si possono dire a radio, possiamo dire a radio regime duale transitorio? Non so se si può dire. Sono ben tre parole. Una parola è un, esatto, un'espressione un po' forse forte. Nessuna delle tre si potrebbe dire. Forse io ve lo dico, quindi insomma, quello forse è un... ma solo usato all'interno di parola. Ma una, non mai, esatto, come congiunta. Una, esatto, pillola su quello, però, perché questa è una cosa importante. Quello è veramente il deposito teorico, diciamo, più importante di cui, cioè, secondo me, che sta dietro a questa cosa. Perché la questione del controllo operaio, quando i lavoratori controllano un luogo di lavoro e lo rimettono in produzione per il bene della collettività, è sempre transitorio. Perché in questa società può esistere un solo padrone, tra virgolette. O siamo noi, o è chi in questo momento ha in mano, diciamo, le leve produttive. O è la maggioranza della popolazione, o è, la virgolette, la borghesia, la classe degli industriali. Quindi è transitorio per questa ragione. È duale, contemporaneamente però è duale, non si deve vedere il film, non l'immagine, è duale oltre che essere transitorio, oltre che essere momentaneo, è duale perché in un momento molto delicato nelle aziende comandano i lavoratori, ma nella società e nel potere politico, quindi nel potere statale, ancora no. Quindi ci sono due regimi di potere che si fronteggiano, è un braccio di ferro più grande di quello che avviene in un'azienda quando c'è uno sciopero, avviene in tutta la società e prima o poi deve essere risolto. O in una maniera o nell'altra. Diciamo che è un seme della contraddizione che in una qualche maniera deve svilupparsi, o da una parte o dall'altra. È proprio dialettico, nel vero senso della parola. Contiene la soluzione. Questo si può dire. Non si può dire. Si può dire. E allora manda la pubblicità. In TV manderebbero la pubblicità. Vespa inorridito manderebbe la pubblicità. Esattamente. Qui non ho nemmeno un plastico, però, quindi non so veramente. È tremendo. Non posso fare Vespa. No, non posso fare Vespa. Caspita. Vabbè, cercheremo di farcene comunque una ragione. Io direi, se non avete nulla incontrato, no, tu volevi aggiungere qualche cosa? No, stavo sospirando. Potrò pure emozionare. Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi abbiamo detto dialettico, duale, transitorio. Shostakovich. Infatti, adesso interrompiamo un attimo per Shostakovich, per una proposta che comunque arriva da Marxpedia e che è un gruppo statunitense, se non erro. Ah, sì, arriva dal compagno Ivan, che salutiamo. Grande, ciao Ivan. Ciao, e a questo punto, esattamente, io a questo What's punto farei partire loro e tornerei fra poco. Godete. Show up in black suits on your street and I'm in boots and then silence you. What you gonna say when they strip your rights away and the tax man makes you pay? Are you a fighter? sharing must discuss. Say you don't look like one of us. We're gonna turn. Now the court has been adjourned. And the lessons that you've learned are not as many as the bridges burn. We don't need to run and hide. We won't be pushed off to the side. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to get back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader? Eccoci qui. Oh, bentornati. Bello Interrupters. Bravo Ivano. Ciao Ivano. Allora, io a questo punto darei molto poco, ci darei molti pochi secondi per introdurre il primo contributo audio. Ema. Sì. Abbiamo pensato che per discutere di un tema che da una parte è molto teorico, ma dall'altra un sacco di esempi storici, non potevamo chiedere a qualcuno della Comune di Parigi, perché ovviamente oramai sono di tanti anni fa, però potevamo chiedere a qualcuno che ha visto il controllo operaio in fabbrica, e allora abbiamo chiesto a un attivista storico della sinistra milanese, Carlo Rutigliano, che è entrato in fabbrica in Pirelli nel 1969, e io ho chiesto di mandarci un audio per spiegarci che cos'era il controllo operaio in Pirelli, quando i lavoratori, quello di cui parlavo prima, pur persistendo ancora la proprietà, erano in grado di imporre, nel vero senso della parola, la volontà anche sui piani produttivi, sul piano produttivo e sul piano organizzativo al padrone. Allora, noi ascoltiamo lui e poi torniamo. Il controllo, a mio avviso, è sempre stato uno strumento di potere a partire dal mondo del lavoro, ovvero dove si producono redditi e profitti. Ci sono stati più di un momento in cui è diventato uno strumento di contropotere perché è esercitato dai lavoratori, e questa è stata la mia esperienza. Brevemente il contesto. Agosto 1969, primo giorno di lavoro alla Pirelli Pneumatici di Bicocca, 17.000 dipendenti su tre turni sulle 24 ore da lunedì a venerdì e uno dalle 8 alle 17 chiamato normale, e non era ironia. Azienda in cui rimarrò con la terna vicende sino alla pensione. Primo giorno inizia con 2 ore di ritardo per sciopero e blocco totale delle portinerie. Il secondo giorno ricevo il primo volantino della mia vita ed è il comitato unitario di base, collettivo di lavoratori sia iscritti ai 3 sindacati che non iscritti, che modificò il modo di fare sindacato in Pirelli e non solo, nella fase dello statuto dei lavoratori e delle assemblee spontanee. Qual era il controllo aziendale, oltre a quello comportamentale? Gli operai di produzione avevano un salario con una parte fissa e l'altra variabile in base ai pezzi prodotti, il cottimo. Pezzi che l'azienda tendeva ad aumentare con miglioramenti tecnologici e soprattutto con il taglio dei tempi di lavorazione dell'operaio effettuato da tecnici che cronometravano ogni singolo movimento. E qui, su un punto di forza aziendale, scatta il controllo operaio. Con lo sciopero a punti, ovvero si riducono i pezzi prodotti perdendo parte del salario ma provocando una perdita all'azienda molto superiore. L'azienda organizza la produzione in modo da avere scorte di semilavorati tra reparto e reparto. I lavoratori inventano lo sciopero a singhiozzo, ovvero ogni reparto sciopera in orari diversi, moltiplicando l'effetto di ogni singola ora di sciopero individuale. I scioperi così diversificati non servivano solo a ottenere miglioramenti economici, ma anche a modificare il modo di lavorare, contrastare l'uso di sostanze nocive e coperte a segreto industriale. Tutto questo portò alla costituzione delle isole di produzione, in cui i lavoratori discutevano come produrre con i tecnici della direzione. Quando anni più tardi la Pirelli smobilitò la Bicocca, divenuta poi sede di università ed altro, e costruì un nuovo stabilimento pneumatico automatizzato con 400 addetti invece che con 4.000 per la stessa produzione, a ciclo continuo H24 con un controllo computerizzato e massima resa. Anche lì la forza aziendale venne usata contro se stessa. Non essendo previste scorte tra un reparto e l'altro, essendoci tempi elaborati per la messa in funzione di ogni linea, bastava un'ora di fermo macchina per provocare una perdita di produzione di circa 2 ore. Questo portò contrattazioni positive sulla riduzione dei giorni lavorativi pro capite, premi e aumenti salariali consistenti molto superiori al resto della categoria, e utilizzando questa forza si ottennero miglioramenti anche per i dipendenti Pirelli non dello stabilimento automatizzato. Concludo dicendo che, per esperienza personale, ogni forma di controllo ha un punto debole che può essere utilizzato contro. Certo, solamente con il coinvolgimento dei lavoratori stessi, della loro intelligenza e conoscenza anche parziale del ciclo lavorativo, cosa ancora più efficace in un'epoca come questa dove tutto è informatizzato e automatizzato. Tiè. Tanta roba. Wow. Mamma mia, infatti, wow. Veramente. Averlo un primo giorno di lavoro. Sì, che miseria. Che sogno, esatto. Che sogno. Rimanere legati al posto di lavoro grazie alla lotta di classe, esatto. Cioè, nel vero senso del termine. Io, scusate, mi intervengo un po' a gamba tesa, perché, cioè, sentite che emozione, questa unità, questo senso di appartenenza alla classe lavoratrice, alla classe operaia, alla classe lavoratrice, no? E io oggi mi sembra di far fatica a leggere lo stesso senso di appartenenza nella classe lavoratrice di oggi, no? Cioè, non lo so, la rivoluzione industriale ci ha messi da fine Settecento in poi tutti quanti in grossi agglomerati produttivi che in un senso o nell'altro ci portavano a riconoscere negli occhi dell'altro la nostra stessa condizione di classe, e quindi a costruire dei legami che diventavano legami naturali, legami umani, e quindi legami di lotta, poi, no? Di rivendicazione. Oggi la parcellizzazione lavorativa, no? In piccole unità, e poi il terziario, e poi quando non sei al lavoro l'ultra individualismo che ti porta ad essere solo ed esclusivamente un consumatore. Cioè, mi sembra che cioè Rutigliano parlava di 17.000 dipendenti, no, alla Pirelli. Oggi mi sembra che solo alcuni settori, come ad esempio la logistica, in particolar modo con la forza migrante, e forse alcune realtà produttive di certe dimensioni, continuino a mantenere una sorta di senso di appartenenza di classe. Per tutti gli altri mi sembra ci sia come prospettiva quello che sta accadendo adesso negli Stati Uniti e che sta venendo importata in Europa, cioè la Great Resignation, no? Le grandi dimissioni, perché uno semplicemente si rompe il cazzo, non ne può più, vive in un'ottica, in una vita completamente individualizzata, e quindi la prospettiva che ha è quella di licenziarsi, senza riconoscere nel proprio compagno di lavoro un compagno possibile anche di lotta. Ecco, cioè, come si fa? Che cosa è vero quello che sto dicendo? Lo chiedo a Emma. È vero quello che sto dicendo? E se è vero, come si fa eventualmente a ricostruire un senso di appartenenza di classe? Ci sono degli esempi che sono di natura storica e degli esempi che sono molto più contingenti. Un posto di lavoro che sicuramente non è frammentato, non è parcellizzato come GKN, per esempio, che comunque aveva, insomma, centinaia di lavoratori, in ogni caso ha avuto una risposta alla chiusura dello stabilimento di massa e organizzata, perché lì gli attivisti sindacali che erano nella fabbrica hanno lavorato per anni al coinvolgimento dei dipendenti, e in ogni caso non abbiano lavorato per anni al coinvolgimento dei dipendenti, ma per molto tempo questo coinvolgimento ha riguardato soprattutto una piccola frazione di questi lavoratori, che ha costituito il collettivo di fabbrica, ma era una piccola frazione. Poi, quando gli avvenimenti hanno avuto una brusca accelerazione e la proprietà ha deciso di chiudere lo stabilimento, c'è stato un rinculo nella coscienza. Perché la coscienza di tutti noi è conservativa, nessuno di noi vorrebbe passare la propria vita a lottare, nessuno di noi vorrebbe vivere bene il più possibile, e invece si è costretti da questa società, perché è una società che si basa su antagonismi di classe. E quindi, quando è arrivata la frusta della chiusura, i lavoratori si sono compattati dietro al collettivo di fabbrica, dietro agli rappresentanti sindacali. Ma questo è stato possibile solo in virtù del lavoro pregresso fatto. Quindi ci vuole molta militanza e bisogna saper nuotare contro la corrente con tenacia. Prima risposta. Seconda risposta, che mi viene da dire, questa disgregazione, per la stessa ragione, secondo me, è solo apparente. Se oggi vediamo le mobilitazioni nella logistica, se vediamo le mobilitazioni nella grande distribuzione, se vediamo le mobilitazioni tra i rider che chiedono la sindacalizzazione, non so dove altro potremo vedere le mobilitazioni. E lì sentono l'appartenenza. Certo, in principio magari è una mobilitazione che non riguarda l'intero corpo dei lavoratori di quel settore, ma è l'inizio che poi innesca questo processo. Quindi quella che sembra una sfilacciatura apparente, in realtà non è nient'altro che una fase nella quale si accumula coscienza. E quando poi arriva la sberla, che prima o poi arriva, perché viviamo in una società di sfruttamento, tutto quello che tu hai incamerato, se hai avuto anche la fortuna di essere vicino ad attivisti che hanno lavorato per l'organizzazione sindacale, allora questo provoca un salto in avanti della coscienza, e quindi i lavoratori che tu non avresti mai pensato prendere parte si sentono vivi, sentono che hanno in mano la possibilità di poter gestire lo sciopero, che lottano per la propria vita, per il proprio futuro. E a quel punto ti stupirai di vedere che diventano avidi di politica, di conoscenza. In grande nella società questo processo avviene anche nelle rivoluzioni. Popolazioni e strati che pensavi, che hai visto inerti per anni o per decenni, che in pochissimo tempo prendono in mano il proprio destino. E come diceva il vecchio Engels, 20 anni vengono condensati in 20 minuti. E questo si chiama processo di coscienza ed è dialettico, esattamente come quando lo scontro dentro l'azienda porta al controllo operaio. Silenzio. Da qui a poco, cioè, l'unica cosa che mi sento ancora che non è stata tirata fuori è fattore soggettivo, fattore oggettivo, che però qua arriva. Arriva. È lì che sta assolutamente, però spinge. Io sento che qualcuno bussa alla porta e secondo me è il fattore soggettivo il fattore oggettivo. No, e invece io in realtà a questo punto proseguirei sull'onda anche di quello che stavamo dicendo, in realtà, perché mi sembra che il discorso continui ad essere abbastanza calzante, perché a un certo punto in questo opuscolo c'è un paragrafo piuttosto corposo, diciamo, che racconta alcune delle esperienze storiche più rilevanti da questo punto di vista, con evidentemente una serie di pregi, una serie di limiti che ha visto, che li ha visti eventualmente collassare, e altresì, come dire, si traccia un po' cioè si vede tracciare una traiettoria, diciamo, con ognuno di questi esempi. Quindi non so se te la sto lanciando un po' troppo ampia. No, perché okay. No, ma devo dire, noi abbiamo scritto un opuscolo e, parlando di esempi di controllo operaio, non potevamo che utilizzare prevalentemente esempi storici. E gli esempi storici sono esempi nei quali il controllo operaio non si riduce a una sola azienda, ma si estende a molte aziende. Citiamo un solo esempio di controllo operaio ridotto a una sola azienda, ed è la Renault nel maggio del 1968, fondamentale e decisivo, diciamo, e occupata a Nantes, rimessa in produzione sotto i lavoratori e poi però chiusa, perché maggio 1968 fu il più grande sciopero generale della storia, diciamo, europea, ma a un certo punto venne anche sconfitto. Ma per rimanere, diciamo, sulla cronologia, per così dire, e parlare di questi grandi eventi storici, noi possiamo dire che la nostra esperienza da comunisti comincia nel 1871 con l'esempio della Comune di Parigi. Gli operai parigini occupano Parigi contro il tentativo di fatto di far occupare il paese dalle truppe prussiane, e per la prima volta viene instaurato un regime di controllo operaio dove i laboratori, perché non c'erano ancora le fabbriche nel senso moderno, vengono gestiti da lavoratori organizzati e l'intera città viene riorganizzata, la polizia e l'esercito vengono sciolti, vengono organizzate milizie popolari e nei luoghi di lavoro si discute come produrre e che cosa produrre per mantenere l'intera città. Tanto che Marx, per fare un esempio banalissimo, che fino a poco tempo prima pensava che questo slancio sarebbe stato prematuro, quando gli operai di Parigi prendono in mano la città e instaurano questo regime di controllo operaio, la saluta con grande entusiasmo, perché si rende conto che lì, nella pratica, c'è un grande deposito teorico. Nella pratica lì viene risolto la base per creare una società differente. Quello che nel manifesto del Partito Comunista di una trentina d'anni prima era soltanto abbozzato, nell'esperienza pratica, e poi si corre, perché inevitabilmente si rivede la stessa cosa, è una mossa istintiva della classe lavoratrice. Lo vediamo nel 1905 in Russia e 12 anni dopo, con la rivoluzione d'ottobre, si creano i soviet, che sono soltanto comitati di sciopero, non vengono creati dai comunisti, dai bolscevichi, non sono la creazione dei lavoratori, e poi diventano di fatto organismi di contropotere, e gestiscono la produzione, tanto che il regime sovietico nei primi anni, quando nazionalizza in fretta e furia nei primi due anni l'economia, fa un congresso dopo l'altro dei soviet, degli operai, dei contadini, dei soldati, perché estende questo regime consiliare un po' a tutta la tutta la società, la gestione intera della società, e questo è il primo esperimento nella storia umana applicata a uno Stato dalle immense risorse naturali di gestione dal basso dei lavoratori in modo organizzato e soprattutto, la parola centrale, in modo pianificato. E questo ovviamente porterà un paese di analfabeti, di contadini, pregni di superstizioni religiose, a diventare la seconda potenza mondiale nella storia, a mandare il primo uomo nello spazio. E questo sarebbe stato possibile solo grazie alla pianificazione, anche se, non ne parliamo stasera, sarebbe lunga, il controllo operaio in realtà in Unione Sovietica terminerà entro, diciamo, i primi 10 anni della storia del paese, per ragioni che sono politiche anche, non soltanto economiche, non per il fallimento del controllo operaio in sé, ma per un processo di degenerazione, ma anche di sconfitta politica delle rivoluzioni attorno alla Russia. Ed è un esempio per noi centrale. E poi, andando avanti, abbiamo fatto l'esempio invece più parziale del 1969 italiano. Abbiamo fatto l'esempio dei paesi dell'est, l'esempio jugoslavo nel nostro opuscolo, che è un esempio molto parziale, anche quello, nato, diciamo, da una Jugoslavia nazionalizzata, dove la borghesia è stata espropriata, dove il partito comunista ha il potere, dove si danno delle misure di controllo operaio che però sono solo parziali rispetto all'esperimento russo, rispetto a quello che viene nel 1917, fino a che, e a noi, secondo noi è stato estremamente interessante, si arriva all'esperimento del Venezuela. Altro processo rivoluzionario, golpe, rapimento di Chavez, le masse scendono in piazza e chiedono la liberazione del presidente, il paese letteralmente si paralizza e un'azienda multinazionale tecnologicamente molto avanzata come la PDVSA, che è la principale azienda petrolifera del paese e del Venezuela sul petrolio campa, quindi un'azienda di grande tecnologia dove c'è una divisione del lavoro altissima tra ingegneri, tecnici, operai, logistica, eccetera, viene rimessa in funzione dai lavoratori. E l'esperimento venezuelano sarà anch'esso un esperimento parziale, perché manca il fattore soggettivo, no, questo ovviamente diciamo, sarà un esperimento parziale, ma sarà un esperimento che vedrà diverse aziende rilevate dai lavoratori. Perché dico parziale? Perché alcune di queste saranno aziende che diventeranno cooperative. E con la cooperativa viene meno il concetto di controllo operaio, perché la cooperativa è la trasformazione in proprietà, diciamo, collettiva, sì, ma dei lavoratori con i propri capitali, che poi devono concorrere all'interno del sistema, e finisce che uno si deve anche un po' autosfruttare per rimanere dentro il gioco della concorrenza. Certo, perché non si tratta di produrre il necessario e distribuire tutto, ma si tratta di competere in un mondo dove in realtà si produce quanto più di superfluo per cercare di vendere, insomma, di estrarre plus valore. Tra l'altro mi sembra che in realtà con questa risposta abbiamo dato anche un po' una forma al regime transitorio duale che dicevamo prima, certo. Nel senso che fondamentalmente poi quello che, di cui stiamo parlando è questo. C'è un attrito, c'è una contraddizione, diciamo, di nature, e da una parte o dall'altra deve andare a finire, non può coesistere per sempre. ai noi. Ho citato soltanto i principali, esatto, perché avrei potuto dire il biennio rosso in Italia, esperienza consigliata, tantissimi altri processi rivoluzionari. Speriamo che ci sia a tra l'altro anche tempo in un altro momento magari di approfondire, certo, anche questo, nel magari senso, durante un nuovo biennio rosso che vivremo sulle nostre vite, certo, sulla nostra pelle, per esempio, a partire da weekend prossimo. Esatto. Bello. Chi lo sa. Bel proclamino, magari, Chiara. Sì, eh. Complimenti. Adesso arrivano gli SWAT così e si arrampicano giù dal tetto. E io non so se per voi va bene, ma io in realtà metterei un altro stacchetto musicale. Sì, io. E poi proseguirei, diciamo, presentando un nuovo contributo audio e lasciando parlare Gigi, perché secondo me, come dire, riusciamo a dare un'ulteriore tridimensionalità a quello che stiamo dicendo, magari piazzandolo un po' più rispetto a delle esperienze anche prossime che per fortuna abbiamo la possibilità di sentire raccontata live and direct. A questo punto io metterei un brano che invece arriva dai compagni del Baraonda, che è che è Solidarity degli Stage Bottles, che invece sono tedeschi. Tanta roba. Sono che cazzo tedeschi, ne so di che cazzo chi sono? Sa? Io ascolto chi? La musica. Certo. Siamo internazionalisti, ma cosa mi frega di dove sono, voglio dire. Esatto, a questo punto io la farei partire e ci troviamo un po' fra poco su questi canali, su questi satelliti. Any workers fight to make a stand, and behind them every honest working man. In unity with each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night. We're all with you in our hearts and in our minds. And we'll pray for the workers through the darkest time. I know your finest mate of a firmer kind, and no riot stick will gain your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess, cause your fight's a struggle that is less. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night. Yes, we are with you in our hearts and in our minds. As we pray for the workers through the darkest time. Tyrant has no smile upon his face, cause he knows that in his mind he's in disgrace. The religion of union will take their breath away. Our time will come and then we'll have our say. In our hearts and in our minds. Eccoci qui, siamo tornati dopo questa Stage Bottles, che tra l'altro, raga, vi voglio dire la verità, era un po' rallentata perché eravamo rimasti a delle configurazioni precedenti. No. Ma era molto bella lo stesso. Infatti, secondo me si è sentito molto meglio il testo. Ce lo siamo goduti di più. E ottima anche questa suggestione musicale. E noi torniamo qui a questo punto. E come anticipavamo prima, torniamo per molto poco, perché anche in questo caso ci limitiamo a presentare il nuovo contributo, sì, che questa volta arriva da Gigi Malabarba. Sì, sì, che è un altro nome storico, in questo caso diciamo della sinistra anche italiana, se vogliamo. E, però in questo caso gli abbiamo chiesto un contributo rispetto a un'esperienza, che è quella di Rimaflo, che è l'esperienza di un'azienda che è stata chiusa, di cui i lavoratori hanno conservato il corpo. Non hanno fatto ripartire la produzione così come essa era, però hanno riutilizzato lo spazio per dargli una nuova vita. E quindi in qualche modo è una pratica di controllo, una pratica di ripresa del controllo. Allora ce l'ascoltiamo. Per noi di Rimaflo Fuori Mercato, il controllo operaio è un punto cardine di un'impostazione di classe. Si tratta infatti dell'essenza del protagonismo e, se vogliamo, del vero e proprio potere dal basso esercitato da chi lavora, ossia da chi produce la ricchezza sociale. Il controllo operaio si esercita a partire dal controllo sulla prestazione lavorativa, attraverso il controllo dei ritmi di produzione, dell'orario di lavoro, imponendo nei fatti un determinato livello di manodopera, per arrivare poi ai livelli più alti, come il controllo operaio sulla produzione, che può significare incidere su cosa, su come, per chi produrre. Se guardiamo l'attuale drammatica crisi ambientale, di fronte a un sistema devastante rispetto alla stessa vita sul pianeta, si può ben vedere cosa potrebbe significare far valere un punto di vista operaio e popolare in contrapposizione alle politiche del profitto che ci stanno portando al disastro. È da qui che siamo partiti come Rimaflo, dove non abbiamo avuto i rapporti di forza necessari per realizzare un controllo operaio sulla produzione, utilizzando i vecchi macchinari sottratti al padrone. Questo non è stato possibile, ma abbiamo utilizzato l'occupazione, quindi comunque, se vogliamo, una forma di controllo operaio sul capitale fisso, quella parte di capitale che riguarda le strutture, gli edifici, eccetera, il terreno, per ricostruire un'attività lavorativa e ponendoci nello stesso tempo una domanda: di che cosa avrebbe potuto fare una fabbrica metalmeccanica per il pianeta, rispondendo in primo luogo ai bisogni del territorio. Costituendo una cooperativa di comunità, abbiamo cercato di dare una forma giuridica a due concetti: quello del mutuo soccorso, recuperando la tradizione migliore delle esperienze delle società operaie di mutuo soccorso di fine 800, quelle del mutualismo conflittuale, cioè quelli che combinano l'attività economica con la vertenzialità, con quello dell'auto-organizzazione e dell'autogestione operaia, che rappresenta essa stessa un'articolazione del concetto di controllo operaio dal basso. Fondamentale per Rimaflo Fuori Mercato è proprio la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici insieme ai soggetti del territorio, quelli che hanno un'impostazione ovviamente trasformativa, che stiamo coinvolgendo direttamente nella gestione stessa delle nostre attività. Ecco, senza questa relazione la nostra esperienza sarebbe stata schiacciata dalla repressione, sicuramente, pensate a 7 anni di occupazione, e sicuramente sarebbe stata strozzata dal punto di vista economico, perché non può certo esistere il socialismo, per chiamarla così, in una sola fabbrica. Ora, meglio di noi, GKN, a Campi Bisenzio, ha saputo costruire una progettualità autonoma da quella padronale, utilizzando il controllo operaio, certo, soprattutto per un anno, per la gestione della lotta, ma anche appunto per proporre un piano di mobilità sostenibile attraverso l'utilizzo dei macchinari esistenti e delle competenze esistenti. Chiaro che, come sta andando la cosa, è evidente, nonostante lo sforzo fatto, che non si otterrà, ma potranno esserci dei risultati parziali come sottoprodotto di questa lotta, a cui ci sentiamo noi come Rimaflo particolarmente legati, a cui, se vogliamo, contribuiamo anche producendo la Sambuca Operaia in Sorgiamo a sostegno della Cassa di Resistenza. Ecco, mantenere un punto di vista operaio, mettere a frutto il sapere operaio, controllare dal basso per porre le basi di un'economia altra, solidale e autogestita in alternativa alla crisi del capitalismo. Ecco, io penso che sia questo il concetto fondamentale che dobbiamo difendere. Hai detto poco. No, allora io intanto ringrazio Gigi perché il contributo è veramente on point anche in questo caso. Mi sento di dire che uno dei contributi più interessanti, diciamo degli stimoli più interessanti che arriva da questo audio, è di rimettere al di là del, come dire, dello spazio, del luogo di lavoro come spazio attraversato, mette anche un po' il posto di lavoro come tassello all'interno del sistema economico che, come dire, riprende da un'altra prospettiva quello che stavamo dicendo adesso in realtà, e quindi secondo me è particolarmente come dire, utile. Non so se ti ho dato un là che è comprensibile, però questo vuol dire l'azienda aggrega. Questo è un aspetto centrale. E chi ha in mano i luoghi di lavoro teme le mobilitazioni dei lavoratori, teme le mobilitazioni della classe lavoratrice, perché l'azienda aggrega. Ed è per quello che parcellizza. Esatto. E cercano di dividerla a tutti i costi, perché i luoghi di lavoro aggregano il movimento, costringono centinaia e migliaia di persone a lavorare gomito a gomito, spalla a spalla, o anche all'interno degli stessi uffici, proprio per chi fa l'impiegato, e sono sottoposti alle stesse condizioni di vita, di orari di lavoro, di retribuzioni, vedono le differenze e condividono lo stesso comune destino, che è una cosa che non potrebbero mai condividere a casa loro o semplicemente su una base squisitamente territoriale. E questo è il punto decisivo del luogo di lavoro. Il luogo di lavoro è centrale, è per quello che il controllo operaio è centrale, che sia operaio. È una questione assolutamente decisiva. Poi ovviamente il controllo operaio è, diciamo, per un paese ancora più centrale nelle aziende dove si fabbricano le cose, perché lì si plasma la realtà. Però viviamo in una società complessa, digitalizzata, e quindi oramai è diventato centrale il controllo delle banche, è diventato centrale il controllo dei flussi. Provate a immaginare che cosa sarebbe l'Ilva di Taranto nazionalizzata e posta sotto controllo operaio. Potrebbe produrre per l'ambiente, però da sola non sarebbe sufficiente, perché le banche, se non fossero nazionalizzate sotto il controllo anche di chi lavora nelle banche, la strangolerebbero, non gli darebbero credito. I fornitori di materie prime gli bloccherebbero le consegne e lo Stato gli bloccherebbe le strade. E quindi è chiaro che una volta che prendi un'azienda, inevitabilmente politicamente, come in un effetto domino, si pone il problema di prendere tutto il resto della rete, della struttura produttiva. E questo è tabù, questa è la bestemmia che in qualche modo non noi nel nostro piccolo, siamo solo un collettivo redazionale, facciamo ogni sforzo possibile, però nel nostro piccolo come Marxpedia proviamo a divulgare, ma è il tema centrale che manca, che vediamo mancare nei dibattiti pubblici e che magari in questo momento è presente soltanto in nuce, pieno anche di potenzialità, ma che diventerà secondo noi decisivo, non perché lo vogliamo noi, magari fosse così sarebbe già attuato, ma perché sono gli industriali con la loro crisi e con gli attacchi al movimento operaio che lo renderanno inevitabile. E infatti per gli industriali all'ascolto, che immagino saranno a frotte, per una parola per rasserenarvi: proprietà privata. Esatto. Ripetetelo dentro di voi fortissimo, perché nei vostri 21 prima di andare a dormire, nei vostri 21 passi verso per la meditazione, ripetete proprietà privata. Esattamente, proprietà privata. No, effettivamente, no, adesso scherzi a parte, il tema di come dire, di come si agganciano ognuno di questi tasselli. Adesso la questione del credito sicuramente viene citata più volte ed evidentemente è centrale, nel senso che è chiaro che quello che succede all'interno o viene, e di nuovo qui sempre torniamo, o trova un suo spazio all'esterno, o se lo crea un suo spazio all'esterno, oppure è destinata a un assedio abbastanza drammatico. Sicuramente è altrettanto vero che ognuna di queste esperienze poi un po', come dire, fornisce l'esempio per quelle successive, quindi ognuno in realtà è benvenuto, chiunque voglia come dire, chiunque voglia dare dei buoni esempi è benvenuto in ogni ambito dell'esistente. Connettiamo i buoni esempi, perché esatto, quello che dice Emanuele, che è terribilmente vero per le realtà lavorative, è ugualmente vero per le realtà territoriali, perché le esperienze anche splendidamente generose che noi abbiamo visto o vediamo nel mondo rispetto alla costruzione di un territorio gestito in maniera differente e egualitario, orizzontale nelle decisioni, eccetera eccetera, penso al Chiapas, ma penso al Kurdistan, voglio dire, no? Sono realtà che inevitabilmente rimangono strangolate perché noi viviamo in un mondo ultra globalizzato dove tutti siamo necessari, fabbriche e territori, ma nessuno è indispensabile. Quindi è evidente che se ci poniamo, come dire, in contrasto con quelle che sono le logiche di dominio del capitale, allora veniamo tagliati fuori, strangolati e usciamo dall'esistente. Ed io ti faccio una domanda: quando c'è stato lo scoppio della pandemia maggio 2020 con il lockdown, quante realtà sociali, spazi sociali sono andati in mezzo alla strada a portare viveri, aiuti, vicinanze? Quello è o non è dove lo Stato non arrivava e dove nemmeno i privati ovviamente arrivavano? Quello è o non è una forma potenziale in certo, nuce di controllo del territorio? Quello è il controllo del territorio in nuce, appunto. Le brigate di solidarietà, io credo che quasi tutti gli spazi di Milano abbiano contribuito alla nascita di brigate di solidarietà. Questo è qualcosa che non viene da solo, che non viene a caso, no? Avviene perché nella natura stessa del nostro agire politico esiste la necessità del controllo territoriale, perché esistiamo per quello come spazi sociali, perché se no non serviremmo alla causa della lotta di classe. E allora ecco perché già dissi questa cosa la volta scorsa, alla scorsa trasmissione, ecco perché il nostro agire come brigata di solidarietà è un agire diametralmente opposto rispetto a quello della Caritas, perché noi ci poniamo o dovremmo porci quantomeno l'obiettivo del controllo. E torniamo quindi al tema del controllo. Ma infatti, secondo me, al tema della costruzione di reti. Ma infatti, secondo me, stiamo gravitando infatti ad alcune questioni molto interessanti, nel senso che, sicuramente da un lato c'è, adesso poi del territorio raccoglierò molto volentieri alcune delle suggestioni che hai lanciato. Magari prima e mezzo facciamo partire un altro contributo, ma sicuramente ci arriviamo. Però è vero quello che dici, cioè, come dire, sono vere, è vera la questione della interconnessione in svariati frangenti. Il primo sicuramente è questo qui che stiamo dicendo, cioè quello di connettere delle esperienze interessanti che sperimentano e che quindi in una qualche maniera stanno fornendo degli strumenti, per quanto embrionali, ad altri, o quantomeno stanno facendo salire un po' di entusiasmo, che è altrettanto non fa male, e non voglio dire fattore soggettivo perché me lo impedirò, ma viceversa in realtà in alcuni casi, e quindi, come dire, c'è un grado di necessità forse altrettanto elevato nel discorso che invece si apriva prima, no? Quello del come dire, dell'interconnessione, anche del fattore diciamo delle strutture e delle sovrastrutture, se vogliamo dirla così. Ma verosimilmente partiamo anche solo dalla struttura, nel senso che effettivamente poi adesso in questo io non so se sto anticipando / lanciando troppa carne sul fuoco, ma nel frattempo secondo me è anche interessante vedere come cambiano ognuna di queste interconnessioni, anche che citava Ema, rispetto, come dire, a tutti i passaggi più o meno produttivi di distribuzione, di credito, eccetera eccetera. È, come dire, evidentemente parlavamo di botteghe quando parlavamo di Comune di Parigi, evidentemente parlavamo di stabilimenti di tutt'altro genere sotto una serie di punti di vista quando parlavamo, diciamo, del periodo del Novecento, quantomeno. Viceversa, adesso abbiamo anche un altro, come dire, un altro tipo di contesto lavorativo che si muove sotto delle dinamiche diverse, che ha in realtà, continua ad avere, mantenere la validità di quello che stiamo dicendo. Penso al lavoro della distribuzione, evidentemente anche i compagni del Baraonda, qua rimbalza, come vedi, un tema tira l'altro, nel senso che io ho un sacco delle vertenze della logistica est di Milano, le ho conosciute attraverso il lavoro dei compagni del Baraonda, e quindi, come dire, a questo punto la domanda la faccio la butto più sul teorico, cioè quanto rimane vero e quanto è diverso in un contesto come quello che stiamo attraversando oggi, quello che abbiamo detto? Forse rimane difficile? No, anzi, in realtà è semplice, forse rimane ancora più vero. Onestamente, intendiamoci, all'inizio del Novecento, nel 1871 con la Commedia di Parigi, nel 1917 con la rivoluzione russa, nel 1969, oggi il grado di cultura, preparazione tecnica, alfabetizzazione della nostra classe è infinitamente più alto. Muoviamo apparecchiature, flussi, conoscenze, sistemi digitali complicatissimi. Le proprietà sono del tutto superflue, non danno assolutamente nulla al funzionamento degli uffici, delle aziende, dei capannoni in qualsiasi angolo del mondo, non servono a niente. Qualsiasi lavoratori di un ufficio, di un'azienda, di una fabbrica saprebbero perfettamente come portare avanti la produzione, quali ordini fare, quante farne, come gestire i magazzini, come gestire la documentazione, come tenere a posto i server, come tenere a posto la produzione. Il superfluo ora è oramai la proprietà, ma è superflua perché è diventata storicamente superflua, perché lo sviluppo della tecnologia, della capacità di produrre, è diventata tale che questo regime di proprietà, basato su una proprietà sempre più stretta, che reinveste il lavoro che non retribuisce alla nostra classe, è oramai diventato inutile dal punto di vista storico. È un parassita e deve essere rovesciato. Quindi io credo che in realtà oggi le condizioni siano ancora più mature per questa forma di controllo. Altro esempio, non di controllo operaio, ma che ci raccontava qualcosa, ritorno su questo perché è stata una delle lotte più significative, lo è ancora, che abbiamo visto recentemente, ora fatto un anno tra l'altro, da poco, dal 9 luglio, i lavoratori GKN organizzati, tutto quanto voleva, hanno fatto la manutenzione dello stabilimento per mesi, credo che lo facciano ancora, compreso delle macchine all'interno presenti. Se ci fossero state le condizioni, se ci fosse stata un'altra stagione di lotte con altre aziende in lotta, eccetera, probabilmente quell'azienda sarebbe tranquillamente potuta ripartire, avrebbero potuto produrre semiassi, ma magari avrebbero potuto produrre altro ancora, come hanno tra l'altro dibattuto, perché le competenze, questo è il punto centrale, le conoscenze e le competenze della classe lavoratrice oramai sono assolutamente stramature. Non viviamo più in una situazione dove i lavoratori per la prima volta si approcciano a questo, anzi è completamente contrario alla situazione. No, infatti siamo nell'epoca del, lo dico in inglese, overqualified unemployment. In inglese no. Lo dico in inglese, ho detto in italiano, della disoccupazione iperqualificata, cioè quelli che hanno troppe competenze rispetto a quelle che vengono richieste sul mercato, o quantomeno a quelle che verrebbero richieste alle persone che già non detengono i fili della produzione. È un riflesso delle grandi lotte del movimento studentesco. Abbiamo guadagnato l'istruzione per la nostra classe, e mentre l'esercito di disoccupati, il sistema lo fa comunque, quindi fa un esercito di disoccupati istruiti. Giusto, sì. Esattamente. No. Io nel frattempo, scusate, io vorrei chiedere ufficialmente a Radio Zam che facesse un meme, okay, con la faccia di Ema che dice, diciamoci, la proprietà non serve a niente. Non serve a niente. Non serve a niente. Ma e questo vorrei un meme. Ne, ne faremo una traccia audio che manderemo in loop, ininterrotto. Sì, sì, sì, quando sì, non sì, avete le trasmissioni. Esatto, esatto. Riempiremo tutto così il nostro palinsesto. Allora, io direi di fare così. Mettiamo l'ultima canzone, sì, l'ultimo contributo audio, che sì, secondo me ci rimbalza nuovamente sul tema di, come dire, del territorio e dell'autogoverno e dell'autogestione. Lo fa meravigliosamente portandoci dall'altra parte dell'oceano, ma nel frattempo noi mettiamo la undicesima ora di 11th Hour dei Rancid, traccione del 96-7, non lo so, però molto bello, e quindi ce l'ascoltiamo. Questo è Fulgen, nel frattempo ci rompe le cuffie. Sta rompendo un altro paio di cuffie, esatto, in diretta. Sta spaccando tutto, ma è molto rock and roll come attitude, quindi sta poi cercando di mettere al contrario, tra l'altro. Non si sa bene come. Adesso lo facciamo sentire in soggezione. Scusate, mi sta facendo, non mi sento, mi sta facendo mettere a posto le cuffie da appunto il Matteo, no? Che, cioè, Matteo per colui che mi ha già giudicato, cioè okay, dopo avermi giudicato per tutta la trasmissione con il suo sguardo perforante sulla nuca, mi mette a posto le cuffie guardandomi come un deficiente. e forse lo sono, quindi insomma, è bellissimo così. Vai, torna in cuffia. Allora, esatto, adesso torneremo in cuffia. Nel frattempo io introduco quest'ultimo brano che ci tengo parecchio a presentare, perché è un reperto storico. Io avevo pensato se parlarci sopra per tradurlo, ma in realtà è talmente un reperto storico che mi sembra un po' scorretto parlarci sopra, quindi ve lo tradurrò subito dopo. Ed è una delle introduzioni fatte il 9 agosto del 2003 durante l'assemblea di nascita delle Caracole Sciopaneche, che per chi non lo sapesse sono, diciamo, le comunità territoriali che hanno preso all'inizio degli anni 2000 il testimone delle Aguardientes e che costituiscono un'esperienza di autogoverno, devo dire, del territorio con i fiocchi, motivo per il quale adesso ce le ascoltiamo mentre ci propongono i 7 accordi, diciamo, che vorrebbero essere fondativi di questi organismi, che secondo me è un'altra cosa che è squisitamente sul pezzo E quindi con questo io vi lascio, vi faccio sentire loro perché sono più interessanti di me, ed eccoli qui. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Como respuesta frente a los planes de la clase política que pretenden fragmentar al país, proponemos 7 acuerdos. Primer acuerdo: respeto recíproco a la autonomía e independencia de las organizaciones sociales y a sus formas de lucha. Segundo acuerdo: promoción de las formas de autogobierno y autogestión de acuerdo a los modos de cada quien. Tercer acuerdo: promover la resistencia civil y pacíficas frente a las disposiciones del mal gobierno y los partidos políticos. Cuarto acuerdo: dar solidaridad total con el agredido, no con el agresor. Quinto acuerdo: formar una red de comercio básico, intercomunidades y promoción del consumo básico, dando preferencia al pequeño y mediano comercio y el llamado comercio informal. Sexto acuerdo: oposición frontal y radical a las inminentes privatizaciones de la energía eléctrica, el petróleo y otros recursos naturales. Séptimo acuerdo: formar una red de información y cultura, crear medios de información locales y establecer redes regionales y nacionales, y defensa y promoción de las ciencias y las artes universales. Allora, siamo questo tornati. Meriterebbe una trasmissione da sola. Oh no, vero, sì. Ma è potentissima. Sì, sì, sì, sì. Allora, io la traduco. È molto bella e quindi spero di no, non ho altrettanto incedere Ciapaneco, ma enfasi. Esatto, allora dice: buon pomeriggio a tutti fratelli e sorelle, come risposta ai progetti della classe politica che pretende di frammentare il paese proponiamo 7 accordi. Primo accordo: rispetto reciproco dell'autonomia e dell'indipendenza delle organizzazioni sociali e della loro forma di lotta. Secondo accordo: promozione delle forme di autogoverno e autogestione, d'accordo con le modalità di ognuno. Terzo accordo: promuovere la resistenza civile pacifica di fronte alle disposizioni del malgoverno e dei partiti politici. Quarto accordo: dare solidarietà totale all'aggredito e non all'aggressore. Quinto accordo: formare una rete di commercio base tra le comunità e la promozione del consumo base, preferendo il piccolo e medio commercio e il cosiddetto commercio informale. Sesto accordo: opposizione frontale e radicale alle immanenti privatizzazioni dell'energia elettrica, del petrolio e delle altre risorse naturali. Settimo accordo: formare una rete di informazione e cultura, creare mezzi di informazione locale e stabilire reti regionali e nazionali di difesa e promozione delle scienze e delle arti universali. Cioè, adesso io non parlo più per 10 minuti, mi sto commuovendo un attimo. No, avete io... preso appunti, spero. Perché... Esatto, no, nel senso che mi sembrava particolarmente puntuale perché posto che evidentemente, come dire, l'esperienza del Caracol sia un'esperienza che qui un po' ci sogniamo, nel senso che il territorio del Chiapas ha tanto da dire e noi tanto da prendere appunti, però mi sembrava interessante come in questi 7 accordi in realtà ci fosse spostati sulla, come dire, sull'ambito territoriale tutta una serie di cose di cui abbiamo parlato, e parlo del, come dire, dalla più evidente, quindi dalle privatizzazioni di energia, petrolio, di risorse, alle, come dire, al rispetto dell'autonomia e dell'autogestione, alla promozione di una rete di cultura e di scienze universali, insomma tutta una serie di cose che secondo me hanno molto a che fare con un riprendere controllo che si sposta un po' dal contesto che abbiamo tracciato come centrale fino ad ora e quindi rispetto ai luoghi di lavoro, e che invece abbraccia un po' la, come dire, la, sfera un po' più, una prospettiva un po' più olistica, una sfera un po' più sociale e territoriale, e ci riporta, secondo me, a quello che è un po' il come dire, una delle questioni metodologiche forse più importanti del controllo operaio, che è fondamentalmente quello di fare esperienza, di prendere il controllo della propria vita, della propria vita, del proprio spazio di lavoro, del proprio spazio di vita personale. Credo che sia un'esperienza che in una qualche maniera abbiamo fatto tutti molto sottovoce e che ci ricordiamo quando l'abbiamo fatta più grossa, come dire, no? Cioè quell'esperienza di riprendere un po' di quello che è mio, adesso ne parlavamo in termini di, forse ne dovremmo riparlare a questo punto, in termini di ripresa dei propri ritmi di vita rispetto a dei discorsi che facevamo prima fuori dal microfono, però in realtà secondo me, uscendo dal personale, penso che un po' richiami la pratica dell'autogoverno dei territori nei casi più, come dire, avanzati e in quelli meno, e nelle esperienze nei laboratori di autogestione che si fanno quotidianamente all'interno degli spazi sociali, all'interno del lavoro delle brigate, all'interno delle autogestioni studentesche. Cioè quella, come dire, forza un po' creatrice che ti fa pensare che è possibile, ma soprattutto lo sviluppo di competenze atte a farlo. E quindi, come dire, quando anche nel contributo si racconta che bisogna avere un, come dire, uno sguardo d'insieme ed essere in grado di controllare anche le finanze, vuol dire prendere il possesso di tutto quello che è intorno, e quindi anche combattere l'alienazione, banalmente, no? Del mio pezzettino, il tuo pezzettino, cioè è risistemarsi un attimo in un contesto intanto collettivo per definizione, nel senso che lo dicono le caracole, se lo diciamo noi, lo dice l'esperienza di Ocalan evidentemente, e del Kurdistan che è stata citata prima assolutamente a proposito rispetto al confederalismo, no? Cioè è un'esperienza per forza di scambio, per forza di incontro, ma soprattutto, diciamo, ma contestualmente di come dire, di messa in relazione come soggetto agente. L'ho detta un po' male, però era quello che volevo dire. No, l'hai detta benissimo. L'hai detta benissimo. Tra l'altro dicevi, uscendo un po' dal personale, io ti dico rientrando nel personale, nel senso che io sono da compagno, da militante, sono assolutamente convinto che la liberazione della mia vita sarà possibile solo ed esclusivamente quando avverrà la liberazione della vita di tutte e di tutti, no? E quindi cioè, è lì che il personale diventa politico e viceversa, ecco, e quindi sentiamo la necessità di fare politica, no? Cioè noi ci troviamo davanti a 7 accordi, ogni accordo è poco più che una riga o poco più, e nei primi due, solo nei primi due, troviamo le parole 4: autonomia, indipendenza, autogoverno, autogestione. Questo solo nei primi due accordi, quindi è evidente come la pulsione... Non niente, tra l'altro. No, esatto, cioè, no? La pulsione del riprendere il controllo delle proprie comunità, delle proprie vite, e gestirle in forma autonoma sia assolutamente fortissimo, no? Parallelamente a questo, e collegata a questo, cioè perché non è un ossimoro questa roba qua, sono legate, si parla di nazionalizzazione. E perché evidentemente se si lotta contro le imminenti privatizzazioni dell'energia elettrica, del petrolio e delle altre risorse naturali, si pensa che esse debbano essere nazionalizzate, ed è evidente che una forma di nazionalizzazione che però ha come principio quello dell'autogestione, dell'autogoverno, sta parlando senza dircelo, no? Però, cioè senza scriverlo chiaramente, ma ci sta parlando di controllo operaio, perché è evidente che se noi nazionalizziamo le risorse, nazionalizziamo e però le mettiamo in un'ottica di autonomia, le stiamo mettendo sotto controllo operaio. Questo a me sembra assolutamente evidente. Sì, sicuramente non stiamo parlando della nazionalizzazione di qui sopra, dei Benetton e delle autostrade, ecco. Esatto. Quelle con esatto, cui abbiamo esatto, iniziato. Esatto, diciamo. Esatto. Ma permettetemi di dire neanche della nazionalizzazione di stampo sovietico-stalinista, ecco, cioè, come dire, no? E quindi di un apparato assolutamente centralizzato. Stiamo parlando di un altro tipo di socializzazione. E un'altra cosa che a me sembra che emerga tra questi 7 accordi, che però ne fa emergere anche la debolezza, a mio giudizio, è la parola rete e la necessità di rete contrapposta un pochino con quella che è l'isolamento. Emanuele già ne parlava prima, no? Cioè, relativo alla questione dei posti di lavoro, della fabbrica, eccetera. Noi siamo capaci di spezzare le catene solo se riusciamo a mettere in opera delle lotte di liberazione territoriali o di posto di lavoro, economiche e quant'altro, che si mettono in rete con esperienze simili. In questo caso è evidente che una realtà come quella del Chiapas, ma ripeto, come quella anche del Kurdistan, hanno vissuto e vivono situazioni di difficoltà politica proprio perché isolate. E quindi c'è la necessità di fare rete, di costruire delle reti con realtà e lotte che anch'esse attuino le stesse pratiche. E questo è un po', scusa, dico, guarda, solo quest'ultima cosa, è un po' quello che secondo me è la funzione, nei piccolissimi territori nei quali ci inseriamo, la funzione dei centri sociali, degli spazi sociali come ZAM, come il Barahonda di cui faccio parte. Perché noi dobbiamo essere capaci di rispondere a dei bisogni e a delle finalità del territorio, che siano anche finalità meramente aggregative, cioè un concerto, piuttosto che la brigata di solidarietà, piuttosto che la discussione politica, piuttosto che la presentazione di un libro o uno spettacolo teatrale o la presentazione di una mostra, pensando sempre a come dire, una finalità utile a sovvertire il potere che domina il territorio nel quale ci inseriamo. È lì che entra la politica, no? E questo è un po', sono un po' le suggestioni che mi vengono, insomma, dai punti dall'assemblea, insomma. Penso che quest'ultimo contributo meriterebbe una trasmissione a parte, quindi non ci voglio entrare troppo approfonditamente. Mi limito a fare una considerazione sotto forma di domanda. Penso che nel movimento zapatista, così come nell'autonomia dei curdi del Rojava, vediamo implicite ovviamente un processo rivoluzionario. Il Messico è stato attraversato da un processo rivoluzionario. Qui si parla del Chiapas, ma pensiamo a quello che è accaduto dopo a Oaxaca, Colapa, no? Una vera e propria comune. Cosa manca in questa mobilitazione e quindi anche in questi proclami? In quel momento il nesso con la classe lavoratrice che c'è nelle grandi città del Messico, a partire da Città del Messico. Ed io dico, l'autonomia dei villaggi, l'autogestione e la rete dei villaggi, che è a modello, che propone una costruzione, un'economia della società a misura d'uomo, organizzata secondo questa piccola rete, è applicabile e utilizzabile in una società, anche al resto della geografia, una società complessa e industriale di grandi città, di grandi metropoli, dove invece c'è centralizzazione? Penso che dovremmo prendere la carica rivoluzionaria di questi 7 punti, gli aspetti tra virgolette più progressisti, più dirompenti, e dal mio punto di vista unirli alla necessità di un piano centrale democraticamente discusso. Se non viene democraticamente discusso, si entra nel regno delle storture, come le citava Fulvio, quali state anche quelle avanzate dopo dell'Unione Sovietica, ma se democraticamente discusse, si entra nel regno della democrazia operaia. Se si entra nel regno della democrazia operaia, ciò che c'è di dirompente, di rivoluzionario in questi 7 punti trova una forza, una linfa nella possibilità di poter poi pianificare, centralizzare, permette di mettere in gioco delle risorse che altrimenti verrebbero parcellizzate tra tante attività tra di loro autonome, che sono costrette a essere autonome perché combattono un potere centrale, ma quando il potere centrale l'hai vinto ti è richiesta una nuova centralizzazione. Come fare la stessa cosa ma su un salto più elevato. E secondo me questa, tra l'altro, la musica mi viene incontro, questa chiusura a cavallo, proprio a cavallo, e credo che questo secondo me sia l'elemento centrale. E dico, torniamo e discutiamo di questo la prossima. E infatti sì, lo faremo, torneremo presto, magari dopo l'estate. Ma io sono sempre qua, però magari dopo l'estate, magari no. 15 agosto, segnatevelo sul calendario, perché il nostro Ferragosto sarà con voi. E mentre voi farete grigliate, vi divertirete moltissimo, noi parleremo di autonomia, di materialismo dialettico, centralizzazione, pianificazione, democrazia operaia e quant'altro. Insomma, sarà un Ferragosto sarà bellissimo. Freschissimo. L'autunno caldo, ma l'estate freddissima. Guarda. Marxismo e spritz. Esatto. Allora, ma caldi, come nella migliore tradizione dei centri sociali allo stremo delle forze. E niente, a questo punto io direi di salutarci, di salutare tutti coloro che sono stati qui ad ascoltarci e quelli che lo faranno anche tramite podcast. Il podcast arriverà presto. E direi a questo punto di mettere della musica per terminare, mentre salutiamo Shostakovich, che è il fratello, che è il fratello recluso di Shostakovich che invece è l'autore del tappeto musicale che abbiamo sentito fino adesso. Questa è la sinfonia numero 2, chiamata 2 October, probabilmente in russo, ma io non lo so dire. E niente, nel frattempo, a questo punto, a chiudere la puntata, mandiamo Christy Moore e 99 Posse, che sono le tracce che non vi abbiamo fatto sentire. E niente, ci salutiamo qua, ci vediamo presto. Grazie a tutti, grazie Chiara, grazie a Radio ZM. True love. La prossima. Molto bello. Dai. Ciao, ciao. Ciao amici. I'm an ordinary man, nothing special, nothing grand. I've had to work for everything I own. I never asked for a lot, I was happy with what I got. Enough to keep my family and my home. They say the times are hard, and they've handed me my cards. They say there's not the work to go around. But when the whistle blows, the gates will finally close. Tonight they're gonna shut this factory down. Then they'll tear it down. I never missed a day, nor went on strike for better pay. For 20 years I served them best I could. With a handshake and a check, it seems easy to forget. Loyalty through the bad times and the good. And the owner says he's sad to see that things have got so bad. But the captains of industry won't let him lose. He still smokes a cigar, he drives a brand new car. Still he takes his family on a cruise. He'll never lose. It seems to me a cruel irony. He's richer now than ever he was before. Now my check is spent, I can't afford the rent. One law for the rich, one law for the poor. Every day I've tried to salvage some of my pride, to find some works as I might pay my way. Everywhere I go, the answer's always no. No work for anyone here today. No work today. No work today. And so condemned I stand, just an ordinary man, like thousands beside me in the queue. I watch me darling wife trying to make the best of life. God knows what the kids are going to do. Now we're faced with this human waste, a generation cast aside. For as long as I live, I never will forgive.